no, quel sporco in viso, un colore non preciso. Ah, la guerra è una scelta, ma a me mi sta un po' stretta. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. La, la, la, la, la, la, la. Sono un kamikaze d'autore. La, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. La, na, na, na, na, na, na. Sono un kamikaze d'autore. Per prima cosa punta il dito, scegli con cura l'obiettivo. La bugia è un tristo invito per sparare. Ma preventiva la sciocchezza. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. Na, na, na, na, na, na, na. Sono un kamikaze d'autore. Na, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. La, na, na, na, na, na, na. Sono un kamikaze d'autore. Na, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. Na, na, na, na, na, na, na. Sono un kamikaze d'autore. Na, na, na, na, na, na, na. Mi faccio esplodere come un fiore. La, la, la, la, la, la, la. Sono un kamikaze d'autore. Na, na, na, na, na, na.